Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Club 91. Club 91 presenta Billboard Music Chart. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh, mercoledì sera 21 novembre e siamo pronti per un'altra due ore of Billboard Music Charts, the best hits of oggi, un paio di ieri and the great sound of Gino Palombo on controls. Allora iniziamo con un gran bel ricordo del 1982, here's Toto! Meet you all the way. There they go, it's Toto from 1982, questo bellissimo brano Rosanna, che è stato scritto per Rosanna Arquette, quell'attrice che tra l'altro, se non sbaglio, è stato in Desperately Seeking Susan con la Madonna, cioè Madonna la cantante, devo dire. Ok, Billboard Music Charts fino alle ore 23, vi do i nostri numeri di telefono, SMS per scriverci qualche bel messaggio, 335-537-9191, ripeto più lente, 335-537-9191, e il nostro numero di telefono 081-549-9191, ripeto 549-9191. Here's American Hi-Fi, another perfect day, come oggi. Invece si intitola Free, ma loro usano molto del brano degli U2, One, e infatti c'è anche Craig David che nel suo Walking Away usa un pezzo di One, l'ha cantato dal vivo sul MTV Music Awards la settimana scorsa, e intanto credo che dovremmo usare questi due pezzi per il nostro Now and Then, il nostro cover per fare un special su One, però ne parliamo magari tra un paio di settimane. Allora siamo arrivati al nostro momento di richiesta prenotato, e ringrazio a chi mi ha chiamato alla 081-549-9191 per prenotare questo ieri sera, quindi per domani magari potete anche telefonare adesso. Allora Marzia mi dice che oggi è il tuo compleanno, allora tanti auguri, happy birthday to you, e ha fatto un gran bel scelta, una grande bella scelta con Missy Elliott and Super Duper Fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super I duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly. Me, I'm super fly. When the rain hits my window, I take it. Me some, me and Timberland, we sang a jangle. We so tight that you get our styles tangled. Sway your do-si-do like you loco. Can we get kicked tonight like Coco? So-so, you wanna play with my yo-yo? I smoke my on the D-Lo. I can't stand her. It's my window. I can't stand her. It's my window. I can't stand her. Got the keys to the Jeep. I'm driving to the beach. Top down, loud sound, see my piece. Give them pounds, now look who it be. It be me, me, me, and Timothy. Look like it's about to rain, what a shame. I got the armor or the shine up his name. Old Missy, try to maintain. I can't stand the rain. I feel the wind, 5, 6, 7, 8, 9, 10, begin. I sit on heels like Lauren until the rain starts coming down in orange chair. I got my umbrella, my finger waves today, they fall like chump. I break up with him before he dump. They have me, yes, he lucky, yes, he lucky. It's my window, I can't stand her. It's my window, I can't stand it. Billboard Music Chart. Eddie was an alcoholic, but your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked around, you were gone. Sailor, e Star Sailor saranno in America a fare un paio di date dal mese prossimo. Speriamo bene per loro. Alcoholic era il nome di quello. Allora dal rock al disco, The Architects. Make this party grow. You're on the dance floor. Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Oh! Ah! Oh, baby! Ah, ecco, stavo quasi come Michael Jackson lì, insomma, non proprio. Comunque nemmeno gli Alien Ant Farm erano molto come Michael Jackson, molto più rockato e molto più bello anche questa versione di Smooth Criminal, che si trova al numero 26 on the Billboard Music Charts. E a proposito di Smooth Criminal, criminali, ha parlato ieri in un'intervista Bono degli U2, ha detto che Bin Laden era simile ad un terrorista dell'IRA, the Irish Republican Army. Ha detto: Osama Bin Laden è il tipico ragazzo viziato e annoiato della middle class, è uno con i soldi proprio come quella dell'IRA, è uno che pensa che le idee siano più importanti della vita umana. E infatti ha ragione, è proprio un crimine Bin Laden. E politicamente, ecco che sto dicendo, politicamente gli U2 hanno sempre parlato forte, e questo si parla di Ali Khan, che si trova in Burma, si intitola Walk On e è nella classifica di tutta Europa. And love is not an easy thing. The only baggage that you can bring. Love is not an easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. Darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no. Oh, 91. 549 91 91. Billboard Music Chart. Eccoli, il nostro numero di telefono 081 549 91 91. E perché il nostro numero di telefono adesso? Perché siamo arrivati al momento del gioco. Alright, allora 549 91 91, chiamateci adesso. Noi prendiamo in diretta la prima persona che ci telefoni. Allora, lunedì, se non sbaglio, abbiamo avuto uno che doveva cantare un pezzo degli U2, proprio Walk On. Non è che l'ha fatto benissimo, però noi abbiamo appena ascoltato Walk On degli U2 e insomma un po' meglio con la voce Bono del nostro ascoltatore di Club 91. Però voglio vedere come, o anzi sentire come siete voi con la voce, se volete cantare un pezzo o se volete rispondere una bella domanda in diretta con me. Allora, il numero di telefono 081 549 91 91. Ragazzi, mi raccomando, adesso è vostra opportunità per vincere un bel capolino di Radio Club 91 on the Billboard Music Chart. Ci avete 5 secondi. 5 4 3 2 1, tempo scaduto. Andiamo avanti con la Billboard Music Charts. Allora, qual è sulle dance floors in tutta America in questo momento? Noi vi proponiamo sempre dai bel pezzi di dance e adesso continuiamo a proporre la bella novità. Questo bel beat in sottofondo viene dal gruppo Darude. Sì, l'ho pronunciato bene, Darude. E il pezzo si intitola Bandstorm, un bel remix. Allora andiamo a fare un grande Bandstorm. We'll be right back. Social Mac Music. Tutte le sere dal martedì al venerdì, animazione e divertimento assicurati. Questa settimana, martedì, piano bar con Enzo De Rosa. Mercoledì, karaoke con i Rossi per la Vergogna. Giovedì, live music con Massimo Baccano. E venerdì, cabaret con Enzo Fischietti. Le tue serate in sono al Mac Music, al centro direzionale di Napoli, Isola E1. London. Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Blige and Family Affair, ma complimenti Mary J. Blige per questo grande number one on the Billboard Music Charts, e complimenti anche che mi ha scritto al 335-537-9191, però purtroppo non hai firmato il tuo nome, hai detto semplicemente complimenti per la musica, ma grazie, allora US3 per te, qualunque che sia. Y'all wanna stress me for? Can a

grande hit per i Blue Control with Hit 'Em Up Style, Oops. Allora, sempre nel Billboard Music Charts troviamo i Destiny's Child con Emotions al numero 3. Però ragazzi, questo è un cover, magari non lo sapevate. Intanto è stato scritto dai fratelli Gibb, cioè quelli di Bee Gees. È stato registrato prima da una ragazza di nome Sarah Sylvester. E noi l'ascoltiamo prima e poi subito dopo la versione di Destiny's Child. Music chart. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? Sometimes I give myself the drink. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. There they go, Green Day and Basket Case. E questo viene dal loro album Dookie dal 1994. E ragazzi, praticamente 6 anni fa, nel 1995, il cantante dei Green Day è stato arrestato, Billy Joe Armstrong, durante un concerto. Ha abbassato i pantaloni in Milwaukee, è stato arrestato con una bella multa di $141. Poverino. Allora, questo lo dedichiamo a qualunque che ha avuto la multa in questi giorni. Una brutta cosa. Allora, Billboard Music Charts, fino alle ore 23 siamo arrivati al secondo ora. My name is Fergal Kavanagh, c'è Gino Palombo on controls. Vi do i nostri coordinati, il numero 335-537-9191 per gli sms e 549-9191 è il numero di telefono da fare col 081-081, il codice si mette. Ok, saluto Rob e Kaz che ci stanno ascoltando in questo momento. Here's Dido. I just can't get you out of my head, oh yeah, Kylie Minogue. E Kylie la settimana scorsa è stato coinvolto in un record mondiale. Praticamente volevano fare più domino, sai quel gioco domino? Tutti in piedi, si spinge uno e cadono tutti. E volevano fare il record mondiale e perciò hanno messo 80.000 dominos in seguito, uno dopo l'altro, un numero incredibile. E chi è che ha buttato giù il primo domino? Giusto, era Kylie Minogue. Ecco, brava lei, eppure c'ha questo grande hit. A proposito di grande hit, Jeremy Quay, un tour inglese che arriva e ha dovuto aggiungere molto date. Allora, il successo, You Give Me Something. Jeremy Quay, è vero, You Give Me Something. You Give Me la voglia di muovermi i piedi con il tuo bel funk inglese. Classifica un grande successo europeo per lui al momento. Ok ragazzi, siamo arrivati al nostro momento dell'album della settimana. E questa settimana, come già sapete se ci seguite questa settimana, è i REM con Reveal, un gran bel copertino tutto giallo e caldo, e sul lato dietro si vede anche il sole che tramonta. E il fatto che è così giallo e caldo dimostra che i REM sono tornati al grande successo, e la musica riflette anche questo. Noi stasera abbiamo scelto di farvi sentire numero 6, è un brano che sentite la Saturn Returns, e veramente è un grande highlight dell'album. Saturn Return dai REM, from the album Reveal. La bella voce di Michael Stipe, la bella atmosfera di Mike Mills and Peter Buck. Find your sights and discover. lemonade. Harder to look yourself square in the eye. Easy to poke yourself easy as pie. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all top psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, easy gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, kept walking, imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut camera off, real blast it. Ways to make your fame mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your mind. Featuring Gwen Stefani. Ok, un nuovo singolo per la Natalie Imbruglia. L'album però tanti polemiche, perché col nuovo software è super protetto e non gira su nessun CD, su nessun suo stereo in Inghilterra. Same, no one thinks so. tea. Only break my can break through. And it's all okay. Yeah, it's okay. Music chart. Billboard. Thank you. Ma che effetto che fa sentire questo grande pezzo da Goldfrapp, si intitola Lovely Head e viene dal suo album intitolato Felt Mountain, un grande album da comprare se siete con un paio di spiccioli in tasca questo weekend. Ma i spiccioli che fine faranno con questo euro? Esisteranno ancora? Chi lo sa? Comunque, a proposito di spiccioli, il grande pubblico inglese ha deciso di non spenderli sul nuovo album di Mick Jagger. Allora, è uscito ieri Goddess in a Doorway, il nuovo album di Mick Jagger, con tanto ma tanto promozione, ma indovinate quante copie ha venduto in Inghilterra in una giornata? 954 copie, cioè un cavolo niente. Però Mick, noi ti vogliamo un sacco di bene. Here he is with God Gave Me Everything. Billboard Music Billboard Music Chart. Il gioco, chiamateci adesso 081 549 91 e giochiamo insieme. 549 91 91. A telefonare ragazzi, cornetto in mano, a telefonare 549 9191 per giocare con noi, per vincere un bel cappellino. 081 549 91 91. Prendiamo la prima chiamante o il primo chiamante che ci telefono per giocare. Vediamo, vediamo se abbiamo qualcuno in linea questa volta. Allora, pronto, chi sei? Buonasera, no, non c'è nessuno, mi stai dicendo, ha riattaccato. Ma che scherzi che ci fate ragazzi, riproviamo. 081 549 91 91 e puoi giocare con noi questa sera on Radio Club 91 per vincere un bel capolino. Allora, vediamo chi c'è in linea, pronto, chi sei? Sono Jane, prego. Jane, come va? Dobbiamo parlare in inglese o in italiano? No, facciamo in italiano. In italiano, ok. Io ho praticamente 5 buste davanti a me, dalle A alle E. Tu devi semplicemente scegliere una di queste buste. Lì dentro ci potrebbe essere una domanda difficile, una domanda semplice, o addirittura ti facciamo pure cantare. Non ti ho mai sentito cantare. No, cantare proprio no. Allora, busta A. A, ok, vediamo questo A. A cantare sei fortunatissima perché non è così. Allora, è una domanda che mi rendo conto è troppo semplice. Che ti posso fare? Ok, abbiamo parlato adesso, se posso legare in modo mio, abbiamo parlato di Mick Jagger che ha venduto soltanto 954 copie del suo ultimo disco. Sì. Però ieri Robbie Williams ha venduto, del suo nuovo album, ha venduto 73.000 copie, un sacco di copie. L'album si intitola Swing While You're Winning e bene o male si tratta di cover di un artista leggendario, un mitico artista. Di che artista sto parlando? Robbie Williams ha fatto il cover album proprio adesso. È quello con la quale canta anche con Nicole Kidman, una grande australiana. Bravissima, bravissima. Allora credo che tu sappia la risposta. Sì, Frank Sinatra. Wow, Jane, alla grande! Ok, allora resti in linea e noi ti spieghiamo come puoi venire a ritirare il tuo bel cappellino di Radio Club 91. E nel frattempo ti dedico questo gran pezzo di dance. Loro si intitolo, cioè il brano si intitola Letting Your Mind Go, e loro sono i Desert e sicuramente sarà tra poco un grande hit. E spero che anche in Australia ci ballino, perché Jane, io so che tu sei australiana, anche se non l'hai detto, solo il modo in cui hai parlato di Nicole Kidman. All right, Jane! Oh, sono il futuro del rock and roll e vengono da New York e sono The Strokes. E questo pezzo si intitola Last Night. E intanto on the last night of the year, cioè il 31 dicembre, ci saranno al Apollo Theater in New York a suonare un grande concerto The Strokes, il che per loro è un grande coup visto che sono abbastanza nuovo sulla scena. Allora siamo arrivati sulla nostra proposta, nostra possibilità di farvi sentire che piace assai a noi. E abbiamo scelto un pezzo cantato da Dan Timinsky. Ma chi dite voi allora, ragazzi? Viene dal film Fratello Dove Sei dai Coen Brothers e si intitola I Am a Man of Constant Sorrow e loro sono meglio conosciuti come The Soggy Bottom Boys. Ci dice Nelly Furtada che dobbiamo fare con le luci. Oh yeah, le dobbiamo spegnere. E perché no, anche noi le dobbiamo spegnere. Turn off the lights, Nelly Furtado at number 6 on the Billboard Music Charts. E Fergal Cavana e Gino Palombo dicendo buonanotte. A domani alle 21, adesso turn off the lights. 91 Music and News.